c'è la mia canzone davanti alla televisione in questo pomeriggio di domenica. Nasce la mia canzone come una tentazione che seduto sul mio letto golosamente aspetto. Vola un'emozione e sarà canzone che scivolando va fuori dalla stanza come una fotografia che un giorno sai era mia ma ora non c'è più, forse l'hai trovata tu. In questo giorno di fortuna, o solo quando piove, lacrime dalla luna, nasce la mia canzone, come una rivoluzione, che seduto sul mio letto, golosamente aspetto, vola l'emozione. Scivolando va fuori dalla stanza come un'altra mia bugia che un giorno sai era qui ma ora non c'è più, forse l'hai trovata tu. Bye.